Ciao a tutte e tutte, dopo la pausa estiva ricomincia Uru, la trasmissione sulla musica africana. Vi ricordo i nostri social subito, il sito da cui ascoltate la diretta, ma da dove potete scaricare anche tutti i podcast delle trasmissioni, wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfirenze, posta wombat@insiberia.net è la nostra mail. Vi ricordo che Uru ha il proprio profilo Twitter che è uru-rw di Radio Wombat. Allora, ricominciamo con una musica molto importante per l'Africa. Avevamo fatto una puntata, ma ci piaceva estendere il discorso su questa musica e sui suoi protagonisti. Sì, una puntata peraltro datata, era la terza puntata. A tal proposito, vi ricordo che tutte le puntate di Uru, tutte le trasmissioni di Uru le potete riascoltare in podcast andando sempre sul sito wombat.noblogs.org alla sezione podcast e ci sono in ordine alfabetico tutti i podcast di tutte le trasmissioni, di tutte le puntate di Radio Wombat. E Uru è con la lettera U e quindi è l'ultimo. Vi ricordiamo anche che Uru lo potete riascoltare in replica la domenica alle 10 e lunedì alle 14. E appunto rifacciamo la seconda puntata, diciamo. Questa è la trentesima puntata, ma la seconda puntata dedicata alla musica Rai, che è uno dei principali generi musicali dell'Algeria, se non il principale. Se lo puoi sentire da qualsiasi parte. In particolar modo in tre città principali, anzi in una città principale, a Orano, ma per estensione anche a Tangeri, a Tlemcen, sostanzialmente la parte no, nord-ovest dell'Algeria. E c'è proprio una delle particolarità, è proprio questa, che è nato, si è sviluppato, anche se poi dopo si è esteso nel resto dell'Algeria e è diventato conosciuto, è stato scoperto. Un po' in tutto il mondo, in particolar modo in Francia, chiaramente, dove c'è una grossissima comunità algerina. E quindi Rai significa opinione, destino, esperienza, visione delle cose, perché fin dall'inizio i cantanti di Rai hanno utilizzato questo genere musicale, questa musica, per esprimere le loro opinioni sui problemi degli algerini. Addirittura negli anni 30 i musicisti di Orano, come Benyamin o Dubai, utilizzavano il Rai per esprimere le loro opinioni sulla politica, in particolar modo contro l'occupazione francese, ma anche su, e questa è un'altra particolarità del Rai, anche tutte le proibizioni della società algerina in quel momento e anche successivamente negli anni, anzi c'è stata una recrudescenza negli anni 80, una società algerina in cui l'impronta e il proibizionismo, diciamo, sotto certi aspetti, esercitato dalla religione, vietava, o se non meno considerava disdicevole, tra virgolette, parlare di sesso e di alcol. E quindi possiamo distinguere due tipi di Rai, cioè un Rai che è quello tradizionale degli inizi, quello che va fino agli anni 70, e un Rai successivo che si è sviluppato prendendo spunto, anzi affondando le sue radici sui Rai, appunto, che è andato. Che è stato suonato dagli anni 30 agli anni 70 e a cui venivano introdotti all'interno del panorama, diciamo, degli strumenti musicali, oltre agli strumenti musicali tradizionali algerini, anche altri strumenti, diciamo, globali da questo punto di vista, chitarra, tromba e via dicendo. Strumenti tradizionali algerini che erano in particolare strumenti a percussione come la darbuka o il bendir. E i cantanti di Rai si sono anche da questo punto di vista, proprio per poter esprimere le loro opinioni, sono stati anche. Non costretti, diciamo, hanno inventato una particolare lingua codificata che gli consentiva di affrontare temi difficili, ma appunto abbiamo detto precedentemente, in particolar modo la presenza francese in Algeria, ma anche tutti i problemi, diciamo, anzi tutte le cose legate a una vita un po' più libera, una vita un po' più bella, ecco, una vita un po' più vissuta. e in quel periodo lei si poteva ascoltare, anzi veniva ascoltato quasi esclusivamente nei bar, non c'erano sale di incisioni, non era possibile suonarla, diciamo, negli appuntamenti tradizionali all'aperto, e quindi i bar fungevano da elemento, da luogo catalizzatore. Nei bar si cantava il re, nei bar si ascoltava il re. E negli anni 30 si canta in Varane, che è un adattamento de Melum, una lingua sempre diciamo delle lingue gergali algerine o comunque del Maghreb, ed era accompagnato dall'oud, questo particolare strumento diffuso, diciamo, nel nord dell'Africa, fisarmonia, banjo e anche il pianoforte. Successivamente la musica si fonde ad altre influenze, questo tipo di musica, particolarmente arabe chiaramente, ma anche spagnolo e francese, che erano le lingue più diffuse in quella zona del Maghreb. Gli anni 50 segnarono l'arrivo, e questo è un altro passaggio fondamentale, sia rispetto al genere musicale, ma sia soprattutto rispetto alla società algerina. Segnalano l'arrivo delle donne nella musica rei, come in particolare Sheikha Ramity, di cui abbiamo appunto parlato, a cui abbiamo mandato alcuni brani nella terza puntata appunto di Uru e la prima del Re, e il cui modo franco di parlare irritava più di un tradizionalismo. E la guerra d'indipendenza algerina segna un periodo di passaggio, un periodo in cui il Re si sviluppa ulteriormente, e alcuni artisti, alcuni musicisti direi, alcuni, e anche alcuni compositori si sono uniti all'FLN, Fronte di Liberazione Nazionale, in questo caso dell'Algeria, che combatteva il colonialismo francese. Agli strumenti tradizionali, dagli anni 70, dall'inizio, diciamo, da quando, nel momento in cui questi il rai, diciamo, diventa anche una musica dell'insurrezione, dell'insorgenza algerina, viene affiancata dagli strumenti tradizionali, cioè il flauto, la darbuca e il beri, vengono aggiunti altri strumenti, in particolare il violino, la chitarra acustica e anche il liuto, così come in alcuni casi, come per esempio Mohamed Zargui, la chitarra elettrica, o come Belemoum Essoud, la tromba e il sassofono. Massoud Belemoum, che sostituisce la tradizionale gasba, cioè un flauto a canna con la tromba, aprendo la via a quello che è stato codificato, è stato chiamato come pop rei. In realtà è semplicemente l'introduzione di strumenti più conosciuti, diciamo così, e più utilizzati nella musica diciamo rock via dicendo, e quindi appunto al posto del flauto inserisce la tromba. Questa evoluzione continuerà fino all'arrivo del Sheb, cioè il giovane Khaled, che darà una nuova dimensione al rei utilizzando strumenti elettronici e dando il via a quello che si chiama, a quello che è considerato il moderno reid. E proprio di Massoud Belemoum vi facciamo ascoltare un pezzo. Ricordiamo che Massoud Belemoum è nato nel 47 in un paesino vicino a Tlemcen, e è proprio il padre del moderno Rai. Di solito è chiamato proprio il padrino, in primo luogo è conosciuto come trombettista e ha iniziato a suonare come trombettista, in seguito suonando altri strumenti come il sassofono, il violino e la fisarmonia, e come detto precedentemente è quello che ha fatto la giunzione tra il guesba ancestrale, cioè questo tipo di flauto particolare, e la tromba. All'età di 18 anni, infatti, Belemoum realizza questa rivoluzione musicale, e per 4 anni, dal 64 al 68, continua a rielaborare con diversi strumenti musicali delle aree di blues oranese interpretate da secoli. E così nasce quello che viene chiamato comunque il moderno rei, e nasce in questo paese, in Aïm Temouchet, 100 km a sud-ovest di Rano. Si tratta però, considerato le dimensioni dell'Algeria, sostanzialmente vicino a Rano. Le star della musica, i principali interpreti della musica rei, lo ritengono anche i migliori improvvisatori di canzoni che il re ha mai conosciuto, proprio perché appunto utilizzava questa tromba un po' come l'utilizzavano i trombettisti jazz nelle loro interpretazioni. Di Belemoum vi facciamo sentire Nedia Ganuria. شبه لي ماشي شبه لي ماشي شبه لي يغضب لي بسالي ماشي شبه لي ماشي شبه لي ماشي شبه لي تغضب لي بسالي ويا جلالي يا جلالي يا مولى بغداد يا داوي حالي ويا جلالي يا جلالي يا مولى بغداد يا داوي حالي هدي لكم النار ومشو هدي في هدي الليلة فرشان بل هدي لكم النار ومشو هدي في هدي الليلة اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكارابينة اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكارابينة رصاص قهوه كارصاص قهوه كارصاص يا ولاد البلاد قهوه كارصاص قهوه كارصاص قهوه كارصاص يا ولاد البلاد ويا جلالي يا جلالي يا مولى بغداد يا داوي حالي ويا جلالي يا جلالي يا مولى بغداد يا داوي حالي consiglio su un libro scritto da un africano da leggere, l'autore è Emmanuel Dongala, nato nel 1941 nella Repubblica del Congo, ha studiato in quel paese, poi si è spostato anche negli Stati Uniti e in Francia. Nel 1979 torna in Congo, dove insegna chimica all'Università di Brazzaville, quindi praticamente al nord, nella parte nord del fiume Congo, ha scritto 4 romanzi di successo. Noi vi consigliamo L'Uomo di Vento, pubblicato da Epoché, che è un romanzo che praticamente segue la storia di Mankunku, un protagonista che diventa la storia di tutta l'Africa, perché praticamente la prima parte del romanzo si immerge nella foresta e nel tempo mitico del continente nero, quindi praticamente in una civiltà africana non ancora venuta in contatto con l'Occidente. Nella seconda parte del libro invece l'ordine coloniale si sovrappone alla situazione già critica di un ordine ancestrale perturbato. Quindi praticamente attraverso il protagonista si passa da un'Africa ancora che non ha ancora incontrato l'Occidente al colonialismo e poi alla fine la lotta e l'indipendenza. Se lo volete in formato elettronico, scusatemi, non mi veniva la parola, lo potete trovare anche alla biblioteca del CSA Nest Emerson. Per sapere gli orari, eccetera, potete cercare sul sito. E a proposito di iniziative, in questo caso appunto è stata menzionata la presenza all'interno del centro sociale autogestito Nest Emerson di una biblioteca, e accanto, siamo alla biblioteca, c'è anche la distribuzione dei libri che è in funzione tutte le sere in cui ci sono iniziative del centro sociale, e vi diciamo anche quelle sono le prossime iniziative del CSA Nest Emerson. Sono nutrite, me le diciamo un po' tutte, di quelle di tutto il mese, perché il mese di ottobre 2017 sono 11 anni che CSA Nest Emerson è stato occupato in via lo stabile in via di Bellagio, successivamente allo sgombero violento sotto certi aspetti che il centro sociale subì nel giugno del 2006 nella sede storia, in quella era la sede storia di via da Tolentino. Quindi vi elenchiamo, magari ve lo potete scrivere, oppure se passate dal centro sociale sono flyer, volantini, manifesti che dicono, che in cui c'è scritto quello che c'è, magari anche in una forma più estesa di come ve la di adesso. E quindi iniziamo un venerdì 13, serata della svolta Sound System, anche perché il percorso della svolta Sound System è un percorso intrecciato con quello del centro sociale, infatti sono anche 11 anni, il compleanno della svolta Sound System. Sabato 14, concerto con Polemia più White Room più Cora. Sabato 21, cena più una rappresentazione teatrale Palestrina Suez, in cui appunto viene ripercorsa la storia e il dramma, diciamo, del popolo palestinese e le continua lotta che sta portando avanti per liberarsi dal giogo, diciamo, sì, dall'oppressione dello Stato israeliano. E quindi questo spettacolo teatrale più una milonga, successivamente allo spettacolo teatrale, la milonga organizzata da Tango Sognato. Venerdì 27 un altro concerto, Crime più Hail più Loia. Si finisce martedì 31, martedì perché il giorno dopo è festa, e quindi oltre a essere la serata di Halloween, diciamo, in cui c'è la cena, una serata rockabilly con Muggles più un Emerson set, ma anche tra la cena e il concerto rockabilly la presentazione con Revo Pensando ad Anna, libro Pasquale Abatangelo, sul suo percorso politico e sociale, va dall'inizio degli anni 70 fino ad ora, con la presenza chiaramente dell'autore di Pasquale Abatangelo, e con un libro molto particolare in cui è bella anche oltre a tutti i passaggi politici, diciamo, una storia degli anni 70, questo è il sottotitolo. Questo è il sottotitolo del libro, ma una storia che comunque dagli anni 70 arriva fino a ora, e in cui ci sono delle descrizioni veramente, veramente belle, realistiche, di quello era la Firenze appunto negli anni 70. Quindi ricordatevi questi appuntamenti: venerdì 13, sabato 14, sabato 21, venerdì 27, per concludere martedì 31. Ma prima di tutto ciò, domani, cioè, al parcheggio in fondo a Viale Corsia, organizzata dai comitati, dal comitato di Viale Corsia insieme agli occupanti di Corsia 81, dalle 15 c'è la terza festa di Rifredi, e si inizia appunto dalle 15 con il mercatino contadino a cura di Genuino Clandestino, più macchine da produzione, e si continua con varie iniziative, tutte legate alla lotta che stanno portando avanti, hanno portato avanti gli abitanti del quartiere, della via in particolare, contro l'abbattimento degli alberi, e quindi più in generale per una migliore qualità della vita nel rione, nel quartiere. Alle 16:30 c'è anche pure l'assemblea, un'assemblea su tentativi, diciamo, di coordinamento e proposte di iniziative per la difesa. Per la difesa dei territori. Alle 20 la scena popolare, e alle 21:30 il concerto, anche in questo caso Roccabilli, con Simone Di Maggio, più una DJ set funky soul. Questi sono gli appuntamenti, o meglio gli appuntamenti di cui siamo a conoscenza, e quindi ve li abbiamo appunto detti. Per comunicare gli appuntamenti potete utilizzare, ripetiamo, l'indirizzo di posta elettronica, postawomba@insiberia.net. Eravamo rimasti a Belle Mu, che era, diciamo, l'autore di Rai, l'interprete di Rai, che ha fatto da tradunio tra il vecchio, diciamo così, come per dare una definizione un po' grossolana, tra il vecchio Rai e il nuovo Rai, e vi facciamo ascoltare ora Iraina Rai, che a sua volta, diciamo, è un ulteriore anello di congiunzione tra diciamo Belle Mu e il Rai più moderno, di cui vi faremo ascoltare tutti i pezzi successivi, saranno appunto quei pezzi da metà degli anni 80 fino ad ora. Appunto, Raina Rai è una delle più famose, se non la più famosa band algerina Muria Rai, originaria del Sidi Bel Abbès, anche in questo caso un paese vicino a Orano. È uno stile musicale che mescola appunto i tradizionali canoni musicali stilistici del Rai anche con il rock. Infatti sono di Raina Rai è riconoscibile grazie al riff del chitarrista di Lofty Attar. Hanno pubblicato il loro primo album nel 1983, Yazina di Rilatai, e hanno preso questo nome dopo che inizialmente si chiamavano l'Aquile Nere, che l'Aquila Nera è uno degli animali più famosi, più conosciuti dell'Algeria, e hanno cambiato il nome appunto in Raina Rai proprio per rivendicare l'appartenenza al movimento Rai. Vi facciamo ascoltare proprio dal primo album che hanno inciso proprio Yazina. Questi sono i Raina Rai. يا زينة مانيش عليك الاخر هنا قولي لي واه ولا لا لا ولا كف عيني لياك احنا للدار يا زين والزين الزين والزين الزين وساكن سيدي يا زين يا زين والفن والراي والفن والراي وخارج من بالعباس يا زين راني مهموم راني مهموم منك ما جاني نوم Sì, si sentiva che era una digitalizzazione direttamente fatta direttamente dall'LP, perché di questa LP appunto non esiste CD, e come molto spesso ci succede che diciamo trasmettiamo brani che non sono stati incisi, diciamo, se non sono stati masterizzati, insomma, su CD, per cui molto a volte i pezzi che mandiamo sono digitalizzazioni di LP oppure di cassette, di cui appunto già riuscire a trovarli, venirne in possesso, diciamo, è molto difficile, proprio perché questo è, diciamo, un po', soprattutto quando si parla di pezzi che sono stati incisi oppure registrati su cassetta fino alla fine degli anni '80, diciamo. E una notizia riguardante il Sudan, una notizia di metà settembre, che chiaramente la pausa settembrina di Uru la diamo adesso, una notizia riguardo il Sud, appunto, che durante la visita del presidente sudanese, che è ancora Omar Hassan al-Bashir nel Darfur, ci sono state almeno 5 morti e una trentina di feriti nel campo di Kalma, in cui sono ospitati 128.000 sfollati, secondo dati dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Questo anche a confutare la vulgata, diciamo, da bar, la vulgata popolare, in cui si pensa che i migranti africani siano tutti in Europa. Appunto, nel campo di Kalma, nel sud di Darfur, sono ospitati 128.000 soldati. E il presidente Bashir, tra l'altro accusato dalla Corte Penale Internazionale per la conduzione della guerra in Darfur, si proponeva di sollecitare gli sfollati a lasciare i campi e a ritornare alle loro zone d'origine, promettendo degli insediamenti, sarebbero stati dotati di servizi di base. Gli sfollati chiaramente non ci hanno assolutamente creduto e hanno fatto sapere chiaramente la visita del presidente non era gradita. Dopo una riunione tra dei campi in cui si era deciso di dimostrare pacificamente contro la sua presenza, era stata consegnata una richiesta scritta e diffusa tra l'altro da Radio Damanga, questa radio di cui avevamo già parlato, avevamo fatto cenno in trasmissione precedente, questa radio del Darfur che sta dando voce alle proteste e comunque alle organizzazioni di base che operano nella regione. Appunto, l'assemblea del campo aveva consegnato una richiesta scritta, appunto diffusa poi da radio Davanga, per chiedere alla locale missione di pace ONU e Unione Africana di proteggere i dimostranti da eventuali attacchi alle forze governative. E è chiaro che l'ONU, insomma, la missione di pace non è stata in grado di dare la necessaria protezione ai civili e dimostravano pacificamente, come dall'altro è successo in altre occasioni. E i testimoni hanno dichiarato al Sudan Tribune che forze governative e milizie hanno sparato pesantemente sui dimostranti, uccidendo appunto 5 persone e ferendone diverse, la maggior parte delle quali donne e bambini. E è stato definito come un massacro contro i civili inermi, una dichiarazione fatta circolare successivamente. Il portavoce del Movimento per la Giustizia e l'Eguaglianza ha sostenuto che, avendo fallito l'obiettivo di fare una visita di propaganda al campo, al-Bashir ha usato le sue milizie per far circondare gli sfollati con più di 250 veicoli armati. Ha dispiegato degli elicotteri che volavano a bassa quota per terrorizzare coloro che protestavano. E in questa situazione di tensione dimostra come la regione sia tutt'altro che pacificata. L'opposizione ha perfino denunciato che alcune basi degli aiuti umanitari sono state chiuse e sono state consegnate alle forze alle Rapid Support Force, le milizie di metà famose per le ricorrenti, famose purtroppo, tristemente famose, per le ricorrenti violazioni dei diritti umani della popolazione dove operano. Adesso passiamo a uno dei grandi del RAI, cioè Cheb Hasni. Vi ricordiamo che Cheb vuol dire giovane, nato a Orano, è stato interprete appunto della musica RAI. Era popolare in tutto il Nord Africa. Dopo aver raggiunto l'apice, diciamo, del successo tra gli 80 e i 90. Era figlio di un saldatore, cresciuto in una famiglia povera, classe lavoratrice, e è molto conosciuto per le sue canzoni d'amore, ma ha anche affrontato argomenti tabù come il divorzio e l'alcol. Durante l'estate del 1987 ha registrato una canzone provocatoria per gli standard argentini, e cioè Beraca, la baracca, ottenendo molta attenzione. I soggetti delle sue canzoni sono controversi, ma anche se lo hanno reso popolare con i giovani, probabilmente è stato ucciso proprio per questo, perché le sue canzoni parlano di divorzi, di sesso, di alcol, e quindi i fondamentalisti salafiti, già preoccupati per la popolarità del genere RAI che comunque, come abbiamo detto anche nella presentazione, è portato, è sempre stato fin dalla nascita, portato a parlare di cose scomode per i fondamentalisti, è stato ucciso da loro e è stato ucciso in una catena di violenza contro i rei. Perché pensate, alcuni giorni prima della sua morte il cantante Kabil Lunes Matoub è stato rapito e l'anno successivo il produttore di Rai, Rashid Baba Ahmed, uno dei più grandi produttori, è stato anche lui assassinato a Orano. Di lui sentiamo Mengirek Entia Fi Dunia. ripetiamo un attimo i social di Wombat, il sito dove potete trovare tutti i podcast, wombat.noblogs.org, Twitter, Radio Wombat FI, e la mail posta wombat@insiberia.net. Uru ha il proprio profilo, è uru-rw. Nel palinsesto sul sito wombat.noblogs.org potete vedere tutte le trasmissioni che compongono Radio Wombat. Ci sono anche, tra l'altro, due pezzi novità e ce ne saranno anche prossimamente, quindi tenetevi aggiornati. Vi ricordiamo che il Uru va in diretta il venerdì alle 9.30, in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. Petrolio, diamanti, oro, l'Africa è ricchissima di minerali che scatenano, che sono state le cause principali della colonizzazione del paese e che tuttora, essendo mano ai multinazionali, scatenano, diciamo, guerre, carestie, moderne schiavitù. E tra i tanti minerali di cui è ricca l'Africa c'è anche il coltan, frutto della combinazione tra colombite e tantalite, la sabbia nera, come viene chiamata in gergo, che è un componente essenziale del funzionamento di ogni dispositivo elettronico di nostro uso giornaliero. È stato calcolato che l'estrazione di questo minerale ha causato, in forma diretta o indiretta, circa 5 milioni di morti nella sola Repubblica Democratica del Congo. Infatti l'80% dell'attuale coltan in circolazione si trova in Congo, e ciò ha fatto sì che le principali multinazionali arrivassero con il loro tempismo che li contraddistingue a monopolizzare l'area per mezzo di un abuso esclusivo del sottosuolo e della stessa popolazione civile in qualità di manodopera. Manodopera che sarebbe che dovrebbe essere utilizzato un termine più appropriato, cioè lo schiavismo, la schiavitù, una manodopera che è sostanzialmente lavora come su una forma di schiavitù. E tra l'altro una delle principali cause di morte nel maneggiare, nell'estrarre il coltan, è che contiene una grossa componente di uranio, materiale radioattivo il quale in caso di diretto contatto, cosa che nelle miniere congolesi è praticamente inevitabile, tant'è che molto spesso l'estrazione è effettuata a mani nude e il contatto può provocare forme tumorali della natura più diversa. È un fenomeno che si è consolidato e ha assunto proporzioni gigantesche anche grazie a vere e proprie tecniche di terrore collettivo che i miliziani, pagati dalle multinazionali, mettono in opera nei confronti della popolazione impiegata nella raccolta. Vengono accusate in particolare Nokia, Sony ed Ericsson, sono questi quelli che le organizzazioni di base e i rappresentanti delle organizzazioni dei diritti civili considerano i partner internazionali più coinvolti in questo commercio, anche se chiaramente è estremamente difficile arrivare ai nomi di tutte le società acquirenti del coltan, a causa anche della presenza di innumerevoli intermediari collocati in giro per tutta l'Europa. E così una terra in cui il sottosuolo è pieno di innumerevoli ricchezze naturali e anche lo stesso sottosuolo che va a sancire problemi per tanti e benessere per pochi. Questo è, diciamo, un po' l'inizio di quello una prima tappa, una prima introduzione, perché la vicenda del coltan, così come quella del petrolio in Nigeria, così come quella dei diamanti in tutta l'area, diciamo, dell'Africa che va dalla Sierra Leone fino appunto alla Nigeria, sì, lo riprenderemo più e più volte. E niente, insomma, questo è solo va tenuto presente soprattutto che questo è un conflitto a bassa intensità in cui le vittime gruppi armati sono sostanzialmente i lavoratori. La teniamo presente, praticamente viene fatto pagare un pizzo oltre al problema sanitario, che è quello più grosso, veramente sconvolgente, se si pensa appunto alle stime, come abbiamo detto precedentemente, ritengo ci siano 5 milioni di morti legati all'estrazione del coltan, ma c'è anche chiaramente tutta una serie di altri passaggi, come per esempio un pizzo che viene esercitato e viene messo sui minatori, perché ogni chilo di minerale estratto si sono obbligati a pagare una quota alle milizie delle multinazionali, e questo perché sono facilmente identificabili, perché loro raccolgono, scavano, prendono questo coltan e in sacchi da 30 o 40 kg, poi camminando li portano fino ai centri di raccolta. E appunto, oltre al problema sanitario, c'è anche questo problema di essere vittima di queste bande assoldate dalle multinazionali. E passiamo a un altro interprete del RAI, Cheb Abdou, nato a Mascara. Questo giovane impiegato diventa presto un grande artista del RAI. E il suo motto è quello di amare le ragazze o i ragazzi e amare comunque. Quindi non esita a dichiarare la sua passione per l'amore per gli uomini. Ha cominciato a suonare e cantare con i Meddates, gruppi musicali interamente femminili, che animano matrimoni e in generale tutte le feste algerine, e va sul palco con trucco, gioielli, e mette in mostra la sua parte femminile. Di lui ascoltiamo Ana Aki Benaoul. Yeah. Ascolto di Uru, qui una rubrica, anzi la trasmissione Radio Wombat dedicata a suoni e notizie del continente africano. Questa è la trentesima trasmissione, quasi un anno, e Radio Wombat ha iniziato le proprie trasmissioni, e altrettanto quasi un anno che abbiamo iniziato a trasmettere questa Uru. E appunto la trentesima trasmissione dedicata a Rai è la seconda trasmissione di Atagrai, e vi facciamo ascoltare un altro pezzo, sempre periodo moderno, tra virgolette, Rai, quello va dalla fine, dalla metà degli anni Ottanta fino adesso, è un pezzo dell'inizio anni 90, sono Fadele Sahrawi, e sono un duo vocale in questo caso, un duo vocale sempre algerino, chiaramente, che è composto da Shep Sahrawi. Ricordiamo che Sahrawi è il nome che viene dato nell'area, in quella zona, al Sahara, al deserto del Sahara, e nato anche lui nella stessa zona, è nato a Tlemcen, e Shaba Fadela, Sheb è giovane, Shaba è la giovane, quindi il giovane Sahrawi e la giovane Fadela, lei è nata a Orano, che è proprio considerata proprio la patria, il luogo del Rai. E sono stati scoperti da appunto Rashid Baba Ahmed, questo produttore che è stato poi successivamente assassinato, e molti pensano siano stati gruppi islamici, il gruppo islamico armato. E Fadela è nata in un sobborgo molto povero di Orano, nel 79 incontra quello sarà il suo compagno fino a un certo punto della sua vita, cioè Shep Sahrawi, Mohammed Sahrawi, e incidono insieme i loro primi pezzi. Di loro facciamo ascoltare un pezzo del titolo significativo, La Verite, Fadele Sahrawi. Yeah. Questo era il nostro ultimo pezzo, finisce qui questa trasmissione di Uru. Vi ricordiamo che se avete perso una parte della trasmissione la potete ascoltare in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. Vi aspettiamo venerdì prossimo, sempre alle 9:30, sempre con Uru. Ciao a tutti.